1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, pronti a leggere i giornali, freschi come delle rose, come fa accenno Peter Biscapè a dire, o Milan Lucchetti, al di là del vetro. Va bene, io con le mie 3 ore di sonno sono pronto. Intanto vi ricordo che oggi parliamo alle 8:15 di che cosa? Degli stipendi degli italiani. Allora, il Premier Letta ha detto che è una leggenda questa dei 14 euro di aumento, una leggenda un po' dei mezzi di informazione con il taglio o il taglietto al cuneo fiscale. Mi ha molto colpito ieri quando ho letto questi messaggi, e questa puntata nasce anche così, di quel bancario che ha scritto gli statali hanno gli stipendi congelati e io ho lo stipendio decurtato al 20%. Apriti cielo, si sono aperti i messaggi, ma arrivati i messaggi di chi dice e allora io cosa dovrei dire? Insomma, ognuno si lamenta per chi uno stipendio peraltro ce l'ha, perché sono molti che non ce l'hanno neanche. Si lamenta dello stipendio. Allora, cari italiani, vorrei che voi faceste la puntata di oggi, raccontateci anche il vostro stipendio, come è cambiato questo dalle 8:15. Il numero per intervenire è sempre lo stesso, 800 24 00 24, dalle 8 è aperto il centralino. E allora ne parleremo anche con ospiti, avremo Giuliano Cazzola, avremo Giorgio Cremaschi con noi e andiamo a fare che? A leggere i giornali. In questo martedì 22 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore si concentra sempre sulla legge di stabilità, casa e uffici, ecco quanto si paga, questo è il titolo di apertura, mentre battaglia sulla legge di stabilità, dalle pensioni agli statali, chi paga? Questa è l'apertura del Corriere, che ha anche un'altra apertura sulla tensione Francia-America, anche l'Italia spiata dagli Stati Uniti, e la vicenda riesplode il caso delle telefonate, delle comunicazioni intercettate. Repubblica, manovra, il PDL allo sbando, La Stampa, sciopero contro la manovra, Letta bacchetta ai sindacati, Il Messaggero, fisco, sconti a rischio dal 2013, Il Giornale, tassano pure i bot. Mentre la vicenda Maradona, su Libero, ha ragione Maradona, lo vedremo tra poco, mentre il Fatto Quotidiano, Maradona e Verdini, quelli che se ne fregano. Avvenire, Letta, ci vuole realismo, mentre l'Unità titola in apertura manovra sfida dei sindacati, il Manifesto invece messa in scena sui funerali farsa delle vittime di Lampedusa. Ma insomma, Maradona niente, ha davvero terremotato la Rai con il suo intervento, ha terremotato Fabio Fazio, che tempo che fa, il gesto dell'ombrello, che poi ha detto Maradona era un gesto un po' di scherno, di scusa, ho scherzato, ma per molti è stato interpretato da un presunto evasore fiscale come un gesto a Equitalia, dunque gesto a tutti gli italiani. Tra l'altro raccontano sia La Stampa che Repubblica che c'è stato imbarazzo e c'è imbarazzo ai piani alti, ai vertici della Rai. Goffredo De Marchis, pagina 11 di Repubblica, Tarantola e Gubitosi si sfogano, che pasticcio con un evasore, tra qualche settimana partono gli spot per il pagamento del canone e noi ci infiliamo in questo pasticcio con un evasore, ecco il punto. Questo avrebbe detto Anna Maria Tarantola ai suoi collaboratori, cioè la presidente della RAI, sfogandosi. Lei viene dalla Banca d'Italia, una vita intera nelle istituzioni, a un certo punto voleva fare anche un comunicato, ma il direttore generale Gubitosi la stoppa dicendo parla solo il direttore di Rai 3, Andrea Vianello. Gubitosi però si lascia sfuggire, è chiaro, quel che ha fatto Maradona è inaccettabile e offensivo, viene dato per furibondo anche lui dopo che qui a Radio 24... ieri mattina da Giovanni Minoli Stefano Fassina ha detto miserabile Maradona che fa quel gesto. Anche per La Stampa, imbarazzo in azienda, massacrati in casa, e proprio sul tema dell'evasione, bollarla come gesto dell'ombrello offensivo, inaccettabile, queste sono i virgolettati che Paolo Festucci attribuisce ai vertici della RAI. E anche per Il Messaggero, una pagina, Maradona gestaccio contro Equitalia, Fazio nella bufera. Tra l'altro c'è anche Repubblica che dedica 2 pagine e il commento in prima pagina di Francesco Merlo, che titola Maradona, Fazio, il fisco e il gesto dell'ombrello. Fabio Fazio, scrive Merlo, sembrava Ghedini e Maradona Berlusconi. E il pubblico televisivo più colto d'Italia applaudiva il reato di evasione che offende la disperazione del paese impoverito, proprio come la corte eversiva del Cavaliere celebra la frode fiscale davanti al tempio di Palazzo Grazioli. Inizia così il commento di Merlo, che insomma ci piazza dentro Berlusconi anche in questa occasione. Sta di fatto che la notizia forse più interessante è tutta la ricostruzione, perché in Italia si sa, ci sono le polemiche, il gesto dell'ombrello, ma poi in realtà qual è la vicenda fisco Maradona? Sfido chiunque a dirmela, a riassumerla. Beh, oggi Libero fa un qualcosa secondo me di interessante, perché in prima pagina Franco Bechis, il vice direttore, riepiloga la vicenda per dire, il titolo di prima pagina è questo: ha ragione Maradona, non è un evasore. Chi era accusato con lui, vale a dire i suoi compagni di squadra Alemão e Careca, è stato assolto. Diego però è nel mirino del fisco per un errore formale, non fece ricorso come fecero invece Alemão e Careca. I ricorsi di Alemão e Careca furono accolti. Maradona invece era all'estero, non ha fatto ricorso in tempo. Quando se n'è accorto ha fatto ricorso, ma l'Agenzia delle Entrate ha detto non c'è più tempo. È caduto, come dire, una prescrizione al contrario, cioè sono scaduti i termini per fare ricorso e quindi mo ci paghi. Scrive Bechis: Diego Armando Maradona non ha evaso al fisco i 39 milioni di euro che continuano a chiedergli. Questo è certo, perché in realtà al limite ha evaso 6,7 milioni di euro. La cifra poi che arriva a 39 milioni sono gli interessi di mora, le sanzioni, eccetera. Quindi l'evasione è al limite di 6,7 milioni di euro. Ma poi, scrive Bechis, il calciatore più famoso al mondo è finito nel mirino del fisco insieme alla società per cui aveva lavorato in Italia, vale a dire il Napoli, e insieme a due giocatori dell'epoca, Alemão e Careca. La vicenda in pratica era questo: non erano i calciatori, cioè i calciatori, oltre al contratto sul quale pagavano ovviamente le tasse, come sostituto d'imposta fungeva il Napoli, tratteneva cioè l'IRPEF, e tutti e tre i giocatori però, Maradona, Alemão e Careca, oltre al contratto da dipendenti avevano anche una sorta di contratto ulteriore con cui cedevano alla società calcistica i propri diritti d'immagine per eventuali sponsorizzazioni e pubblicità. E in tutti e tre i casi, come avveniva all'epoca con i calciatori di tutto il mondo, non erano i calciatori a incassare dal Napoli il rispettivo di quei diritti, ma delle società estere di intermediazione che poi avrebbero dovuto dare ai giocatori gli utili di intermediazione. Secondo il fisco italiano, quei diritti in realtà erano stipendio extra per Alemão, Maradona e Careca. Che succede? Il Napoli quindi avrebbe dovuto versare al fisco trattenute simili a quelle operate sugli stipendi base. Alemão, Maradona e Careca finiscono negli occhi del fisco. Alemão e Careca fanno ricorso, perdono in primo grado, vincono in secondo grado. Maradona invece nel frattempo è all'estero, altre vicissitudini, si dimentica di fare ricorso. Quando fa ricorso in ritardo, il fisco dice ormai è troppo tardi. Quindi fa sapere Libero: avesse fatto ricorso come Alemão e Careca, avrebbe avuto ragione e non ci sarebbe stata tutta questa questione. Maradona però non è un evasore, questo è il titolo di pagina 3 di Libero. Vabbè, comunque la pensiate, ragazzi e ragazze e cari ascoltatori, care ascoltatrici, c'è qualcuno che questa mattina si è svegliato, si sveglierà e dirà: mannaggia, la vita comincia a farsi dura. È Veronica Lario che, notizia in esclusiva del Corriere della Sera in prima pagina, si è vista più che decurtare l'assegno di mantenimento da parte di Silvio Berlusconi. Giuseppe Guastella in prima pagina del Corriere racconta la causa di divorzio a Berlusconi. Berlusconi non dovrà più versare 3 milioni di euro al mese, ma appena 1,4 milioni di euro al mese. Cara Veronica Lario, ci dispiace tantissimo, poverina. Da 100.000 euro al giorno l'assegno di mantenimento è stato rivisto dal Tribunale di Monza, presieduto da Anna Maria Di Oreste, giudice, a 46.000 euro al giorno, solo 46.000 euro al giorno. Dai giudici assegno più che dimezzato. Per Veronica 1,4 milioni di euro al mese. Questo è il verdetto della causa di divorzio avviata da Berlusconi a Monza, le notizie, tutto avviato in gran segreto, la notizia è solo sul Corriere della Sera. Giuseppe Guastella racconta questa ordinanza che riguarda l'appannaggio dell'Alario, appellabile però davanti alla Corte d'Appello di Milano. Chissà se appellerà a questa decisione che, ripeto, porta da 1,4 milioni di euro al mese che Silvio Berlusconi deve dare a Veronica Alario insomma a questa cifra. Che deve fare? Prima erano 3 milioni, adesso 1,4 milioni. Come farà? Non lo so, chiedetevelo voi che state andando a lavorare per ottenere, se avete un lavoro, 14 euro di stipendio in più. Ci sentiamo dopo la pubblicità con la legge di stabilità. 24 mattino. Allora, eccoci qua alle 7:35 minuti, siamo sempre a parlare della legge di stabilità, sempre in discussione, perché ieri il presidente del Consiglio Letta è andato da Lilli Gruber 8:30 a difendere la manovra. L'assedio di sindacati e Confindustria, Letta si difende, sciopero precipitoso. Questo per esempio è il titolo a pagina 2 del Corriere della Sera. Dice Letta, in pratica, difendendo la sua manovra, aspettando sereno il giudizio di Bruxelles, non sarà la rivoluzione, ma dalla crisi si esce passo passo. Poi ha bollato come risposta precipitosa la decisione dei sindacati di scioperare, promette che la legge di stabilità verrà migliorata in Parlamento e soprattutto quello che non sopporta, come racconta sul Corriere Roberto Bagnoli a pagina 2, quello che non sopporta è la storia dei 14 euro di guadagni in busta paga dei lavoratori, bollata come un sassolino che mi ha dato noia. Non è così, è un'operazione mediatica, una cifra fasulla inventata per farci del male. Allora, sarà vera o no questa cifra? Non si sa, non c'è però notizia di una cifra, tra virgolette, vera, anziché questi 14 euro che sarebbero l'aumento medio in busta paga per il taglietto del cuneo fiscale fatto in questa legge. Sta di fatto che Letta difende questa manovra e bolla appunto come precipitosi i sindacati che hanno proclamato lo sciopero. Questo è anche il titolo di pagina 5 di Avvenire: i sindacati, sciopero, Letta, precipitosi. E così sulla Stampa, Fabio Martini a pagina 5, nel retroscena politico, Letta, proteste precipitose, le cose si aggiusteranno. Così il Presidente del Consiglio, che sa di poter contare sull'appoggio di 169 senatori a Palazzo Madama e dunque al Senato, per la vicenda appunto dell'approvazione della legge di stabilità, che certamente cambierà in qualche modo. Sul Corriere della Sera, chi paga il conto più salato della manovra? Questo si chiede il Corriere, e la risposta sono i pensionati e gli statali. I pensionati con il congelamento e la beffa delle detrazioni, gli statali con il taglio del 10% al salario, più che il taglio, diciamo, il mancato adeguamento per il quinto anno consecutivo, e dunque non c'è l'aumento pari al 10% del salario. Come ieri scriveva il Sole 24 Ore, che oggi si concentra anche con una simulazione. Voglio subito con questo salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro e ben ritrovato. Buongiorno Alessandro. Una simulazione che fate sempre a porsi la domanda di base: ma allora si pagherà di più o di meno con questo IMU, dall'IMU alla TASI? Perché questa è la domanda, e pare dalla vostra simulazione che la maggior parte degli italiani pagherà di più. Sono di più quelli che pagheranno di più rispetto a quelli che pagheranno meno, o no Mauro? A noi viene così, a noi questa equazione complicata che sta diventando il passaggio appunto dall'IMU alla TASI, alla Tari e poi al Trise, viene così, viene che se ci potrebbe essere, che potrebbe esserci un vantaggio per chi ha una rendita alta, non ha figli, quindi non aveva prima le detrazioni, e allora in questo caso potrebbe esserci un modesto vantaggio. In tutti gli altri casi, ohimè, spiace dirlo, a noi viene un conto più salato. Le simulazioni prevedono diverse cose, abbiamo messo a confronto quanto si pagava nel 2012, quanto nel 2013, quanto sarà nel 2014. Ci sono tutti, quindi, i casi, no? Il negozio, sì, l'immobile d'impresa, sì, il monolocale, insomma. Anche la seconda casa, che come sai è molto importante per molti di noi, è anche un investimento, per molti italiani è un investimento, quindi viene un po' che viene pesantemente colpita, insomma ci sono dei rincari abbastanza pronunciati a seconda naturalmente poi anche della vastità dell'entità dell'immobile. Altre notizie a parte la legge di stabilità che ovviamente prende gran parte dell'interesse anche dei quotidiani sul Sole 24 Ore? Ma in questo momento è ovviamente preponderante. Ti segnalo, parlavi di pensioni, anche noi abbiamo 4 pagine dedicate alle pensioni, alle rivalutazioni, quindi per chi aumenta c'è un po' di aumento ma non per tutti, bisogna vedere un po' quant'è il proprio importo lordo. E poi un lavoro che viene presentato da Roberto Gallullo, un'inchiesta sulla mafia in Sicilia, perché ieri c'è stata una riunione ai massimi vertici, perché la mafia sta, complice anche la crisi, stringendo ulteriormente la morsa sull'economia. Roberto Gallullo racconta una serie di vicende, una serie di storie di imprenditori che cercano di opporsi a questo malaffare. Vi segnalo solo una cosa: un imprenditore che pagava il pizzo fino al 2007 si è ribellato ovviamente a questa cosa, adesso come dire le maglie della legalità si sono allentate, i mafiosi sono tornati a chiedergli il pizzo, gli hanno chiesto gli arretrati, cioè volevano il pizzo anche su quanto gli anni non pagati in qualche modo, quindi con una capacità esattoriale, con una capacità di riscossione, è davvero incredibile, come dire, che ha tristemente dell'incredibile, insomma. Ha tristemente dell'incredibile, lo raccontiamo nelle pagine del Sole 24 Ore di oggi. Non posso riassumervi, l'articolo è molto preciso, molto puntuale, vi rimando proprio alla lettura nelle pagine di Roberto Gallullo. Allora grazie Mauro Meazza, ci ritroviamo domani. Io intanto continuo sulla questione legge di stabilità, ci sono anche altri articoli come pagina 3 del Corriere della Sera, il PDL va all'attacco delle spese inutili, e poi ho letto questo titolo: taglio per province e 250 piccoli ospedali. Ma come le province? Ma cari ascoltatori, ma io comincio anche un po' a infastidirmi, proprio mentre è in corso la 25esima settimana decisiva per il taglio delle province, ovviamente di questa legislatura, non contiamo quelle delle legislature passate. Eppure Mario Sensini sul Corriere racconta proprio questo: si pensa al PDL di passare al taglio di 250 piccoli ospedali, anche questa quante volte l'abbiamo sentita, razionalizzare le università, anche questa abbastanza, accelerare il federalismo, ma come accelerare? 10 anni che se ne parla, se non di più. I costi standard, ma qui il ministro alla salute ci ha detto che entro 2 mesi i costi standard sarebbero stati applicati, invece sono scomparsi. E poi l'associazione dei servizi comunali secondo bacini di utenza di almeno 100.000 abitanti, va bene questo? L'eliminazione delle province. Ma come l'eliminazione delle province? Ma chi ci crede più? Chi ci crede più, devo dire, anche con l'atto di fiducia quotidiano che noi vogliamo dare, davvero viene da dire chi ci crede più. In ogni caso, questo per quel che riguarda la legge di stabilità, mentre la politica si interroga sempre sulla vicenda decadenza sì o no di Berlusconi. I giornali hanno vari articoli. Paola Di Caro sul Corriere della Sera scrive il solito retroscena con i Berlusconi definito sempre falco, tanto che manda avanti i falchi dei falchi, cioè Santanchè e Bondi, che sono identificati i due più intenzionati a tenere altissimi i toni della polemica contro il governo e all'interno del Popolo della Libertà. E un Berlusconi che dice: pensano di farmi qualche scherzetto a voto segreto? Bene, non mi fanno paura, li aspetto al voto sulla decadenza. E se ci fosse la decadenza, fa sapere il Corriere, questo è il sentimento di Berlusconi, governare coi carnefici sarà improbo. Insomma, sullo sfondo sempre il rischio della minaccia della tenuta di governo. Ma si muovono invece i lealisti con gli innovatori. Devo dire che alle 5:30 del mattino, quando sono arrivato e ho visto pagina 2-3 di Repubblica, il dibattito tra innovatori e lealisti all'interno del Popolo della Libertà è stata discretamente dura iniziare la giornata. In ogni caso, al Senato l'alto là delle 24 colombe, racconta Repubblica pagina 2, Alberto D'Argenio, sono 24 colombe, cioè 24 firmatari capeggiati da Quagliariello, basta attacchi al governo, basta attacchi alla manovra, e nel PDL tornano così i venti di scissione. La contromossa di Alfano e Quagliariello è anche il retroscena di pagina 3 di Repubblica con Francesco Bei. Silvio vuole la crisi con la decadenza, ma sono già pronti tutti i gruppi autonomi, insomma il rischio della scissione. È rispuntato invece, udite udite, Gianfranco Fini. Ha scritto un libro e fa oggi un'intervista, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, pagina 11. Fini, Berlusconi non è affatto finito, per Alfano la convivenza sarà difficile. Fini dice: non smetto, farò politica in modo diverso. Ha scritto il libro Il Ventennio, esce proprio in questi giorni, esce giovedì, quindi tra due giorni. E dice di Berlusconi Gianfranco Fini: era sempre seducente, simpatico con me, mai autoritario, protervo. Perfino l'ultima volta che è venuto da me con Gianni Letta a chiedermi due cose impossibili: vietare di fatto le intercettazioni e tagliare la prescrizione dei reati. Di fronte al mio rifiuto lui ha sorriso: non voglio litigare con te, per litigare bisogna essere in due. E lei cosa rispose? Chiede Cazzullo. Che per divorziare basta uno solo. Subito dopo mi son morso la lingua, sua moglie Veronica se n'era appena andata sbattendo la porta. Ma nel libro lei scrive che il cavaliere non è bugiardo, è sicuro? Sì, risponde Fini, Berlusconi non mente, rimuove, è del tutto incapace di ammettere un errore, ha bisogno di convincersi che le cose siano andate esattamente come dice lui, altrimenti non riuscirebbe a convincere gli altri. E vabbè, insomma, Fini fa questa lunga chiacchierata, parla anche dei suoi compagni ex di viaggio, dalla Russa mi aspettavo di più, ricordo il dolore che mi diede, si toglie anche un sassolino nei confronti dell'ex ministro Andrea Ronchi, perfino lui è diventato ministro, scrive nel libro. Beh, in 250 pagine un paio di cattiverie me le sono concesse. Parla della Bossi Fini, che firma la legge che porta anche il suo nome. Sento molte inesattezze, frutto di superficialità, dice oggi Fini. Il reato di immigrazione clandestina fu introdotto nel 2009, la Bossi Fini è nel 2002. All'epoca innovò la Turco-Napolitano, oggi può essere ammodernata, ma credo che l'impianto resti valido, a cominciare dal principio fondamentale. A parte gli studenti, ha diritto al permesso di soggiorno l'immigrato che lavora e ha un reddito. Dunque Fini che difende in questo la sua legge. E vabbè, parla di tante altre cose e dice: farò politica in altro modo. In questi mesi mi sono dedicato alla famiglia, il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, alle 7:49 minuti, ci sono notizie sui funerali. Ieri, funerali, io mi viene da dire un po' funerali farsa, cioè che funerali sono quelli nei quali non ci sono le bare e che funerali sono quelli nei quali i parenti sopravvissuti vengono tenuti fuori. Comunque c'è stata anche una contestazione, Alfano contestato dagli immigrati, questo è il titolo di pagina 21 del Sole 24 ore. Sto parlando dei funerali delle vittime di Lampedusa, messa in scena, così titola il quotidiano Il Manifesto in prima pagina. Cerimonia funebre senza bare, né parenti né superstiti per le vittime del naufragio di Lampedusa. Tra l'altro anche il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini per protesta non ha partecipato. C'è anche stato tempo per una gaffa abbastanza clamorosa, il ministro Cécile Kyenge, che ha detto: oggi è un giorno importante, l'abbiamo sentito nel giornale nel 6:30 quando abbiamo iniziato la trasmissione, oggi è un giorno importante perché per la prima volta sono stati fatti funerali di Stato. Ha detto: ma come, non erano invece funerali di Stato? Anzi, si è molto discusso su questo, infatti poi ha fatto una serie di smentite, viene intervistata in qualche modo per rimediare da Repubblica, pagina 13, rispetto la rabbia dei familiari, ma questo resta un giorno storico, dice il ministro Kyenge, non si capisce. Comunque non sono stati funerali di Stato, è vero, dice Cécile Kyenge a Repubblica, ma resteranno come un momento solenne in cui abbiamo raccontato al mondo che il nostro paese sta faticosamente cambiando. Per la prima volta l'Italia rende omaggio ai morti in mare. E dunque va bene così. Che dire, ieri abbiamo raccontato questa vicenda surreale, paradossale, di un pensionato di 84 anni di Riccione che ha ricevuto a casa una lettera dall'INPS: lei deve restituire un centesimo di euro indebitamente preso negli ultimi anni. Che è successo? Apriti cielo, polemiche annesse. presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua scrive Libero, arrabbiato, ha ordinato di rimuovere il dirigente che ha fatto questa richiesta e ha fatto chiedere scusa. Nel caso del signor Casali, col quale l'istituto si scusa per il disagio arrecato e provocato, la procedura di salvaguardia non è scattata, e cioè che una procedura che impedisce il recupero dei cosiddetti indebiti irrisori sotto la soglia di euro 12. E quindi l'INPS ha chiesto scusa, spende 223 euro per un cent, l'INPS rimuove il dirigente, pagina 7 di Libero, il dirigente è stato sospeso per aver chiesto questa cosa. Che dire, siamo quasi in chiusura di rassegna stampa. Vi ricordo questa notizia che trovo sul Quotidiano Nazionale: abdica il re dei siti a luci rosse. Cari italiani, avete per caso 100 milioni di euro, 100 milioni di euro che vi crescono dalle tasche? Sappiate che potete comprare YouPorn. Vendo YouPorn per 100 milioni, una scelta dolorosa. Nel 2012 sono stati quasi 5 miliardi nel mondo i visitatori del sito più diffuso di contenuti a luci rosse. Oggi il tedesco Fabian Tillmann, geniale imprenditore definito dal Quotidiano Nazionale, 35 anni, che ha inventato questo nel 2006, è stanco, forse annoiato dalle solite scene che si ripropongono su YouPorn, e lo vende per 100 milioni di euro. Vabbè, se avete i soldi, eccoci qua. Siamo al momento decisivo e finale. Il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali a mio insindacabilissimo giudizio. Pagina 19 della stampa, Vittorio Sabadin ci racconta il battesimo reale, il battesimo di Giorgio, figlio di Kate e come si chiama l'altro? Come si chiama? Harry è il fratello, ma che ne so, ma chi se ne frega? Vabbè, insomma, comunque... Il piccolo George Alexander Lewis, futuro Giorgio VII d'Inghilterra, raccontano, ecco William, vabbè sì, per volontà di William e Kate il suo battesimo sarà una roba sobria, pensate, non avranno neanche la torta, scongeleranno parte della torta del matrimonio tenuta da parte, ma che schifo, ma che c'è una roba coi topi ormai, no, la scongeleranno, ma anche il vestitino sarà sobrio, e chi ci saranno gli invitati? Di certo non ci sarà invitata la spocchiosa principessa Anna, che quando nacque George disse che l'evento non aveva niente a che fare con lei, mentre ci sarà invitata Cressida Bones, quella che sposerà Harry, questo è vero, ma chi se ne frega, ma insomma, amici della stampa, mezza pagina per non capire che la carta costa, giornale radio.